e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E siamo in studio di questo Ristorato Convento in questa serata di questo 20 febbraio al convento di Lonato, e durante una serata di racconto, perché si sono incontrate tante aziende questa sera, in questa cena con profitto. E tra le aziende che si sono incontrate qui in studio questa sera abbiamo l'avvocato Paola Modina e l'avvocato Sandra Cherubini dell'International Roads of Law, uno studio legale di consulenza e formazione legale. Mamma mia, direi che già questo titolo fa capire che stiamo parlando di cose importanti, e anche di cose, mi raccontavano prima fuori audio, di cose anche un po' particolari. Non è il classico studio legale, ma sentiamo la dottoressa Paola Modina, eccola, ci fa sentire. Buonasera. Salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo anche l'avvocato Sandra Cherubini. Buonasera a tutti. Allora, avvocato, chi ci racconta un attimo brevemente di che cosa stiamo parlando quando parliamo dell'International Roots of Law? Lo racconto io, sei d'accordo Paola? Prego Sandra. Dunque, trattasi di un progetto che è maturato dalle nostre teste, non solo dalla mia e da quella della collega Modina, ma anche da quella di una terza collega oggi non presente, l'avvocato Veronica Gaffuri, sì. Che è nostra socia e nostra collega a tutti gli effetti in questa splendida avventura. Avventura che nasce dall'idea in base alla quale non può esserci sviluppo sostenibile senza la tutela e la promozione dei diritti umani e dei diritti essenziali della persona, e non può esserci tutela e sviluppo dei diritti umani e della persona senza a sua volta la tutela e lo sviluppo dell'azienda. E lo sviluppo dell'azienda sono, sì, concatenati proprio, vivono in simbiosi l'un l'altro. Vivono in simbiosi perché uno ha bisogno dell'altro e viceversa. Da qui pertanto nasce l'idea di dare vita a questo studio legale, dove si fa, come hai detto tu perfettamente, sia consulenza che formazione nell'ambito di tutti i settori che riguardano il diritto internazionale, quindi dal diritto internazionale privato, per esempio faccende che riguardano adozioni piuttosto che matrimoni misti, piuttosto che problemi di carattere ereditario che possono riguardare cittadini italiani e cittadini americani, per esempio, ancora tutela dell'immigrazione e promozione del diritto all'immigrazione, tutela delle aziende in generale che vogliono commerciare con l'estero e che commerciano con l'estero, e cura anche di aziende che vogliono improntare, diciamo così, il loro marketing, la loro immagine legale, ma non solo, verso non soltanto la promozione del profitto fine a se stesso, ma la promozione del profitto orientato verso il sociale. Verso il sociale. Mi sembra che siano tematiche innanzitutto, sì, assolutamente all'ordine quotidiano, non direi del giorno, ma direi quotidiano, esatto, proprio nel vero senso della parola, cioè ogni giorno ci si avvicina sempre a toccare questi aspetti. Mi sembra il primo aspetto che mi sembra che si possa cogliere. E poi l'importanza dell'Europa, in che modo l'Europa può essere vicino a questo progetto. È ancora un campo completamente vergine, cioè c'è veramente da stare vicino al cittadino, vicino all'utente in modo... C'è bisogno, a parer mio, ma è la mia idea e di tanti tecnici che come me lavorano nell'ambito del diritto internazionale, c'è bisogno, a parer mio, di credere nell'Europa, prima di tutto, nell'Europa come realtà sociopolitica e nell'Europa come realtà economica e nell'Europa soprattutto come incontro di popoli e di culture e di colori e idee diverse, perché laddove, a mio parere, è una mia idea, si ergono i muri di qualsiasi tipo, dal muro culturale al muro economico al muro politico, il destino è quello che ci porta a compiere poca strada. Molto breve, molto breve. Invece laddove ci si sforza attraverso il dialogo economico, politico, culturale, giuridico nel nostro caso, allora lì la strada è destinata a essere più lunga, forse più difficile, forse più tortuosa da più punti di vista, ma sicuramente più fruttuosa. E peraltro, prima di lasciare la parola a mia collega, perché è giusto che anche lei intervenga brillantemente in questa intervista, conversazione, volevo dire che non ci deve ingannare il fatto che noi si sia specializzati come studio legale in ambito formativo, in ambito di consulenza in diritto internazionale, perché di fatto non possiamo dimenticare e non possiamo mai dimenticare che una persona, ma questo vale anche dal punto di vista giuridico, non può parlare le lingue del mondo se prima non impara bene a parlare la sua lingua madre, perché sarebbe impossibile parlare una lingua del mondo senza conoscere perfettamente la propria lingua. Certo. Questo per dire che chiunque entri nel nostro studio perché ha bisogno di tutela dal punto di vista del diritto internazionale può trovarla, ma nello stesso tempo può trovare in noi persone ed esperti che si sanno occupare, di fatto si occupano sempre anche di diritto civile italiano e di diritto del commercio italiano. Certo, certo. Questo taglio comunque è un taglio, direi, piuttosto, come sottolineavi tu, è un taglio piuttosto nuovo. E di conseguenza io chiedo all'avvocato Paola Modina, e c'è qualche riferimento e qualche indicazione che ci può dare per avvicinarvi in modo pratico al vostro studio senza remore, senza timori, ma con l'apertura per aprirsi a questa formazione che ci può poi portare ad avvicinarci ai nostri ambiti operativi quotidiani, perché poi quello che voi andate a formare nelle persone che si avvicinano al vostro studio poi lo viene vissuto nel quotidiano, ognuno di noi nelle proprie attività. C'è qualche indicazione che può aiutarci a farci avvicinare in modo concreto a voi, i nostri ascoltatori? Ma parto dal dire che, come diceva Sandra, che mi ha preceduto in maniera egregia nella, Sandra Cherubini, nella descrizione della nostra attività, di quello che facciamo tutti i giorni, cioè siamo intrisi appunto di questa Europa, di questa globalizzazione, quindi qualsiasi passo che muoviamo di fatto l'Europa e la globalizzazione ci cade addosso e non possiamo prescindere dal non doverci confrontare con questa realtà. Sarebbe miope una visione scevra di questo. E ecco, la nostra attività di fatto è creata da qualche anno. Ci potete contattare, appunto abbiamo creato un sito web, ci potete contattare sia attraverso, appunto, cioè abbiamo creato un format per cui potete rivolgerci qualsiasi tipo di domanda, quindi ecco, siamo disponibili anche a delle consulenze gratuite, occasionali, per farci conoscere, per far conoscere la nostra attività e anche per conoscere l'attività degli altri, perché confronto vuol dire anche sinergia tra professionisti e imprese, quindi noi siamo interessati anche a conoscere il mondo degli altri per riuscire a migliorarci. E che altro posso aggiungere? Questa sera, tra gli altri argomenti, abbiamo anche parlato di team building e mi permetto appunto di aggiungere che la nostra realtà professionale nasce anche dalla forza del nostro gruppo, che dal nostro punto di vista è un vero e proprio team. Esatto. Possiamo anche dal nostro sito vedere le immagini di questo studio, perciò potremo anche vedere le immagini di queste due giovani dottoresse, giovani avvocate, che però hanno, ho assistito alla presentazione durante la cena, hanno veramente le idee molto chiare, sono molto determinate e soprattutto hanno concretizzato, secondo me, in modo, per carità, un secondo me che vale nulla, però da utente esterno, avete concretizzato e fatto proprio e fatto vostro un'esigenza forte del mercato. Sandra Cherubini, dico giusto, è nato da quale esperienza questa esigenza? Se devo essere onesta, è nata da una mia formazione accademica, perché sia a livello universitario sia poi nel percorso successivo che ho avuto nell'ambito del dottorato di ricerca, io in entrambe le tesi che ho svolto mi sono curata di problematiche relative alla crescita aziendale che doveva andare di pari passo e congiunta con lo sviluppo sostenibile, per cui convinta che questa, ma convinta anche in tempi non sospetti, che questa fosse e sia tuttora l'unica strada che garantisce. Addirittura l'unica. E la più efficace. Una delle più efficaci, una delle forse più efficaci, dal mio punto certo, di vista, certo, la più certo. efficace. Quella che garantisce davvero uno sviluppo che sia sano e tale a lungo termine, cioè crescita economica sana. Ho portato poi questa idea, che era idea accademica, peraltro io ho anche esperienza di lavoro accademico a livello universitario, fuori nell'ambiente dove lavoravo. E fortunatamente ho trovato colleghi veramente in gamba, come Paola che è qui con me e mi affianca, come Veronica che non c'è qui. Avremo modo magari di poter avere in una prossima occasione. Sempre. Al nostro fianco e anche con il gruppo di partner che noi abbiamo, perché siamo affiancati costantemente da uno studio notarile che faccio presente, è lo studio CPV di Brescia, e siamo affiancati anche da commercialisti nella persona del dottor Davide Felappi, specializzati in tematiche non solo italiane ma anche internazionali, e così seguiamo questa strada. Io ho avuto questa idea particolare e sono stata fortunata perché ho incontrato gente che mi ha assecondato. Capito, e che tuttora assistito. Mi sta assecondando. Certo. Sì. Diamo i riferimenti del vostro studio, li diamo, è uno studio international, stiamo parlando con l'International Roots of Love, perciò è diciamo consulenza e formazione legale. Con l'avvocato Paolo Modina e con l'avvocato Sandra Cherubini, hanno lo studio legale a Brescia in via Solferino, a Palazzolo sull'Oglio, e diamo magari anche un riferimento a Castiglione delle Stiviere, anche diamo il riferimento di telefonico giusto di un ufficio, quale preferite, quello di Brescia? Esatto. Di Brescia 030 0975 559. Direi che vogliamo ricordare anche il sito, così i nostri ascoltatori possono spiare le nostre attività, e il nostro sito è www.irol.eu. www.irol.eu, prendiamo nota tutti quanti, perché secondo me andare, lei ha detto spiare, andare a spulciare, andare ad approfondire un po' queste tematiche, possono veramente nascere delle curiosità, degli interessi e anche dei supporti a tutti noi per tutte le nostre attività quotidiane. Ciao ragazzi, sono DJ Santana, siete tutti invitati alla pericena della domenica, musica latina e non solo. E questa è la musica, il puro divertimento insieme a tutta la nostra compagnia, e il divertimento non manca mai qui con noi. Vi aspetto al migliore pericena con Bento. Siamo in studio Ristorante Convento in questa serata di cena con profitto. Siamo in compagnia di due dottoresse di uno studio legale molto importante e molto innovativo, chiamerei così, International Roots of Law, l'avvocato Sandra Cherubini, che nelle chiacchierate che abbiamo avuto occasione di fare anche in precedenza è un po' la mente fondatrice, e mi corregga poi se non è così, l'avvocato Paolo Modina, e poi c'è una terza persona che ha fondato questo studio, che è l'avvocato che non è presente questa sera in studio, Veronica Gaffuri. Veronica Gaffuri, perfetto. Allora, io però ho saputo una cosa prima di entrare in registrazione. Ho saputo che l'avvocato Cherubini, anzi, che Sandra, senza avvocato, senza Cherubini, ma che Sandra ha sempre avuto nel cassetto un piccolo, chiamiamo sogno? O è troppo dire sogno? Desiderio? No, desiderio, sogno. Desiderio, ma sogno. Poi ti dirò che secondo me non c'è molta differenza tra il sogno e il desiderio, eh? Sì. Come diceva la canzone di Cenerentola, i sogni sono desideri. I sogni sono desideri. Sì. E allora scopriamo un aspetto, ferma, scopriamo un aspetto personale che probabilmente non ha mai manifestato in pubblico e che probabilmente ci sta raccontando magari una chicca nostra, e questa mi piace, mi piace. Di pure racconta, siamo curiosissimi. Stavo dicendo anche fuori onda che uno dei miei sogni della mia prima giovinezza, perché io tutto sommato mi ritengo ancora giovane, e della mia infanzia è sempre stato quello di poter parlare in radio, di poter fare la radio, per cui stasera mi rendo conto che nel nostro o nel mio piccolo modo di questa sera sto effettivamente realizzando questo piccolo sogno. E questo è veramente, veramente bello, ci fa onore, ci fa piacere essere riusciti a concretizzare questo piccolo sogno dell'avvocato, che però ci parlerà anche delle sue attività, e ci parla delle sue attività professionali, di questa impostazione di studio che ha un taglio veramente personale, particolare, che in qualche modo è andato ad incrociare e a colmare dei vuoti che probabilmente il mercato legale non aveva. E che noi abbiamo colmato. Dei vuoti che aveva e che voi avete colmato. No, dei vuoti che magari potrebbe avere e che noi forse proviamo a colmare, ma lo facciamo con tutta umiltà e di conseguenza non ci prendiamo meriti o primati particolari, perché lasciamo che a giudicarci sia la storia, il futuro, quel che sarà. E anche i clienti. Esatto, e anche i clienti. Esatto. Comunque, nel presente, la nostra attività, che si chiama International Root of Law, è un'attività creata dalla sinergia di ottimi professionisti, una delle quali, Paola Modina, è qui con me adesso e mi sta guardando in tutta la sua bellezza e in tutta la sua bravura. Buonasera a tutti. E attraverso la sinergia di questi colleghi, tra i quali ricordiamo anche la pregiatissima collega Veronica Gaffuri, noi abbiamo pensato di creare un ambiente professionale nel quale chiunque abbia bisogno di assistenza nell'ambito del diritto internazionale, di tutti gli ambiti del diritto internazionale, può trovarla, per cui si spazia dal diritto internazionale privato, per esempio problemi relativi a matrimoni misti, divorzi e separazioni miste, assistenza alle imprese, tutela dei diritti umani e dell'immigrazione e così via, partendo dal presupposto che non ci possa essere sviluppo sostenibile di un'azienda senza la tutela dei diritti umani e la tutela dei diritti personalissimi. E ringraziamo allora gli avvocati, un ringraziamento speciale e particolare, e avremo occasione di approfondire poi attraverso il sito web che l'avvocato ci ha lasciato. Intanto ringraziamo, e ringraziamo anche per l'opportunità che questa cena con profitto al convento di Lonato dà a tutti gli imprenditori di conoscersi e di potersi incontrare. Grazie veramente di cuore, grazie a tutti.